5A. Ascolta e trasforma. Lui è sempre calmo. Lei invece non è mai calma. Lui è sempre allegro. Lei invece non è mai allegra. Lui è sempre attento. Lei invece non è mai attenta. Lui è sempre stanco. Lei invece non è mai stanca. Lui è sempre educato. Lei invece non è mai educata. Lui è sempre libero. Lei invece non è mai libera. Lui è sempre occupato. Lei invece non è mai occupata.